got a slick chick. See, a neat trick. The she's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click a slick chick. Yeah, yeah. The high heels on for the baby blues hat. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Man, oh man, what a sack. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody stop, we're on a dime to look. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Even my heart. My heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat trick. But she bought make me tick. Mama. Clickety click a slick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you yeah. know she's a slick. Yeah, yeah. My, my, my, my, my. Yeah, yeah. I slick yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. A slick chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama. Yeah, yeah. Clickety click a slick chick. Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. E rieccoci, ben trovate e ben trovati a una nuova puntata di Slick Chick. Oggi mercoledì 26 aprile, è facile perché ieri era il 25 aprile, quindi un po' ci si ricorda, e 2017 ovviamente, però questi riferimenti temporali non sono casuali, anche se ve li do tutte le volte e un po' lo sono casuali in realtà, perché per chi ci ascolta in podcast ovviamente tutto ciò non ha assolutamente senso. Però quest'oggi sono importanti perché la puntata di oggi di Slick Chick parla del tempo, o meglio, no, non il tempo inteso in senso meteorologico come potreste pensare, Anche perché se no sarebbero solo lamentele, lamentazioni varie, visto gli sbalzi di tempo meteorologico brutti e fastidiosi che ci fanno ammalare. No, si intende il tempo da un punto di vista di linea temporale, di misurazione del tempo, le ore, i minuti, le settimane, i giorni, gli anni, i secoli, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' lo spunto di Slick Chick di oggi e vi annuncio anche che sarà una scaletta un pochino strana rispetto al solito, un po' anomala, perché non parlerò tantissimo, perché il tempo stringe, sono molto simpatica questa sera, e ho tantissima musica da farvi ascoltare e non posso parlare per ogni pezzo, perché se ne ho vi annoio e si sta qui fino alle 3 del mattino. Quindi un sacco di musica, abbiamo iniziato, l'avrete riconosciuto con la celeberrima Rock Around the Clock, un pezzo del 1955, uno dei primi pezzi rock and roll super famosi, di Billy Halley and His Comets, rifatto un po' da La Qualunque, ma questo che vi ho proposto era la celeberrima versione ufficiale, direi. E proseguiamo subito con un pezzo di tutt'altra pasta, che si... giusto per appunto iniziare dalle basi, si intitola Linea Temporale, dall'album Il Limite Valicabile del 2015, che è il penultimo disco dei Walkie Talkie. È un brano abbastanza bislacco, soprattutto all'inizio, non vi spaventate perché c'ha un buon minuto di pulsazioni e robe elettronicose, ma poi il pezzo un po' parte, ecco, ma è bello così. Quindi Linea Temporale, Walkie Talkie, da Il Limite Valicabile, penultimo disco del 2015. esistente. Thank you. E a ruota, dopo i walkie talkie, ci siamo ascoltati giusto per rinfrancarci un attimo e ritirare sul tono. I T-Rex, l'avrete riconosciuti, beh, abbastanza inconfondibili, poi ve li propino in continuazione, quindi un po' ormai dovreste averli imparati. E T-Rex con 20th Century Boy, uno dei pezzi più famosi, beh, in realtà cioè, al tempo neanche troppo credo, però è uno di quelli che è stato tramandato negli anni maggiormente. Questa era la versione originale, ma esiste anche una versione che poi molti confondono, blasfemi, confondono con questa originale. C'è una versione bruttina secondo me, ma effettivamente abbastanza fedele, per questo anche confondibile, dei Placebo, che è presente nella colonna sonora di Velvet Underground, che a dispetto di tanti pareri sfavorevoli, invece secondo me è un bel film sul glam e su quell'epoca di luccichini e cose belle. Non so se l'avete mai visto, se non l'avete mai visto, beh, insomma, è un film abbastanza anche dozzinale, diciamo, non è proprio il film di nicchia, ma se non l'avete visto, ve lo consiglio perché è piuttosto interessante e offre una prospettiva di una scena musicale che in Italia perlomeno è abbastanza sconosciuta o perlomeno incompresa. Beh sì, ok, lo sapete perché Slick Chick ve la suggerisce spesso. Questa appunto che ci ascoltavamo era la versione originale di T-Rex di Mark Bolan. E proseguendo nella nostra scaletta, 20th Century Boy, adesso parliamo di 7 Seconds, 7 secondi. Appunto 7 Seconds, nome del gruppo, come saprete, che gruppo, mi verrebbe da dire, lo riprenderemo immagino più in là nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quando con il mio ospite misterioso faremo la puntata dedicata a CBGBs. I 7 Seconds direi che ci stanno abbondantemente dentro. In questo caso però vi faccio ascoltare un brano molto molto bello secondo me, che ha fatto un po' storia, Young Until I Die, sì, quindi giovane finché non muoio, dall'album The Crew del 1984. E a seguire, giusto perché insomma 7 Seconds, giusto per un'associazione di idee molto facile e molto banale, ci ascoltiamo gli Affluente con il pezzo 7 secondi, appunto letteralmente tradotto in italiano, dall'album TSOL Veri Suoni della Libertà del 2000. Però iniziamo con il pezzo che vi ho promesso, assai bello, Young Until I Die dei 7 Seconds. Until I die. questi l'avrete riconosciuti dalla voce abbastanza inconfondibile, erano gli Affluente, come si diceva, con 7 secondi. E proseguendo, beh sì, dai secondi passiamo agli anni. Vabbè, è una scaletta un po' così, non è che si passa proprio matematicamente in ordine crescente, direi per niente. Dopo i secondi, appunto, passiamo agli anni e ovviamente parlando di anni, a me perlomeno viene in mente questi anni dei Kina, che è un grande classico degli albori del DIY italiano. E fra l'altro questo qua è uno, direi, dei più famosi dei brani dei Kina. Io vi devo confessare che il disco dei Kina che mi piace di più è quello acustico, senza nulla togliere alle atmosfere che comunque creavano negli altri dischi, per carità di Dio, però quello acustico, secondo me, che poi è, ve lo ricorderete forse, Troppo lontano altre storie del 1996, che raccoglie diversi brani dal 1987 al 94. È un disco dove i Kina abbandonano, diciamo, ogni velleità di elettrificazione e velocità e si lasciano andare quella che a me verrebbe da definire la sincera verve folk, che secondo me è un po' istintiva dei Kina e che li caratterizza. E però in questa maniera i pezzi vengono fuori diretti, semplici e limpidi, e secondo me sono molto fruibili, molto belli. Muoio, sentite il tempo. Quindi i Kina, questi anni. Un po' meno, forse penso di più. il battito. Voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più. Questi giorni non mi lasciano e non lo sentono il battito. Voglio qualcosa di più, voglio qualcosa di più. L'aria si è fatta rarefatta, un altro giorno si consuma in fretta. Passo e tiro dritto in mezzo alla gente distratta. Il passato sta lottando coi denti, ma qui hanno già clonato i sentimenti. E peggio è che sono tutti contenti. I replicanti dallo schermo mi sorridono. Ricambio anche se so che di me non si fidano. Questi giorni passano e hanno già disperso i branchi. I meno forti scalzano e sono già partiti in tanti. In questa città che non dorme camminerò in mezzo alle ombre, seguendo le tue impronte per arrivare in tempo e darti ciò che veramente penso adesso, perché presto sarà tardi per spiegarti. I secondi passano feroci, si mangiano i ricordi di cui ti nutri, lasciano i vuoti, siamo spiacenti, fermata ultima, un altro giorno d'inverno e intorno la mia gente dubita. Luci blu come il velluto, tutti giù in un minuto, un altro infiltrato che è stato bevuto. Sono giorni in cui vorremmo starci accanto, ma chissà com'è, ognuno è nel suo mondo, ognuno stanco. Questi giorni non mi lasciano, ma dai, non lo sentono il battito. Voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più. Questi giorni non mi lasciano, ma dai, non lo sentono il battito. Sì. Voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più. Vedi che sto bene, l'aria è cambiata in questi giorni. Parte la gente, si disperde nei dintorni. Colle del Fomento sta spingendo nel traffico del rap, ma il traffico qua sta finendo. Posso fare ogni cosa in questi giorni, pochi secondi e te ne accorgi. Giorni in cui la pioggia non si ferma, sfida la mia calma e trova la sua nuova arma. Meno saggi, più tranquilli, un pezzo avanti agli altri. Questo è come devi mostrarti, anche se dentro stai morendo puoi fidarti. 30 secondi per capire come posso salvarti. Cerco l'affetto come sempre, ma non aspetto, vado tra la gente. Bevo una bevanda dissetante. I tempi della comunicazione comunicano un senso di insoddisfazione tra le persone. Parlo, parlo eppure sono il primo che non cambio. Duro come il marmo, come posso stare meglio questo tempo? Se il meglio questo tempo è solo quello che invento. Capisci? Questi giorni non mi lasciano, ma dai, non lo sentono il battito. Sì, voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più. Questi giorni non mi lasciano, ma dai, non lo sentono il battito. Sì, voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più. I giorni passano lenti in questi tempi sempre freddi, anche col sole. Il dito sulla radio cerca una stazione, la posse con il nome, la calma e la rivoluzione. Dorme con le proprie idee sotto un piumone. Un viaggio nel viaggio di sempre, rende miniature di problemi giganti sotto una lente. Il giorno diventa inconcludente, la notte passa rapida e non sono incosciente. Ma non può piovere per sempre, per questo mi ci dedico. Ma non batto sconti perché so che la vita è morta a credito, e pago gli interessi col coraggio. In mezzo a questi giorni che so come i soldi solo di passaggio passeranno e se ne andranno, fra il ricordo di chi c'era e la speranza per i nuovi che verranno. E anche se non so come saranno, quando sarà giunta l'ora noi sempre qua ci troveranno. Questi giorni non mi lasciano, ma dai, non lo sentono il battito. Sì, voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più. Questi giorni non mi lasciano, ma dai, non lo sentono il battito. Sì, voglio qualcosa di più, voglio qualche cosa di più. Beh sì, vi sto mandando un bel po' di classiconi, mi rendo conto. Questi erano ovviamente i Colle del Fomento con Questi Giorni, pezzo tratto dall'album Anima e Ghiaccio del 2007, e Ichina, tra l'altro, il pezzo di prima che abbiamo sentito, Questi Anni, non vi ho detto perché stavo morendo strozzata, Che sì, quella versione che avete sentito era tratta dall'album acustico del 96, Troppo lontano altre storie, ma originariamente era tratto dal Se ho vinto se ho perso, il grande classico album del 1989. Quindi se volete risentirvelo nella versione quella vera, quella con le chitarrazze elettriche, beh, ascoltatevi quello. Dopo i colli del fomento, non mi riesce più di parlare, mi sento di introdurvi un altro pezzo decisamente meno famoso, anzi direi che lo conosco io e pochi altri, perché trattasi di 20 anni dei Sant'Antonio. I Sant'Antonio sono un gruppo che è stato sulla scena punk hardcore, un po' scrimo italiana di, boh, io penso, non lo so, per un paio d'anni, insomma c'è stato ben poco, purtroppo, perché secondo me era proprio un bel gruppo. E l'album in questo caso è Disperazione in Musica del 2005, come tanti del dischi di quel periodo, beh non solo di quel periodo, frutto di una coproduzione di DIY tra varie etichette e progetti di autoproduzioni molto interessanti. In particolare questa era una produzione di DIY Conspiracy, nota ai più per aver prodotto tanti dischi interessanti dell'ambito DIY e dell'hardcore, e non solo strettamente hardcore italiano, soprattutto nella prima metà del 2000. No, prima metà del 2000 non è ancora passata, intendevo della prima metà dei primi 10 anni del 2000, ecco, dal 2000 al 2010, diciamo così. Quindi ascoltiamoci Sant'Antonio con 20 anni, e questo vi sfido a conoscere, secondo me non la conoscete, è un po' una perla di Slick Chick. Sant'Antonio, 20 anni. Questi erano i Sant'Antonio, appunto, 20 anni, bellissimo album secondo me, bellissimo vinile bianco, tutto completamente bianco, abbastanza introvabile ormai, ahimè, però per chi l'ha comprato al tempo è contento perché se lo può godere. E proseguiamo dopo i Sant'Antonio, tutt'altra musica, come ormai vi ho abituato, si salta di palo in frasca. E ci ascoltiamo adesso un pezzo tratto da un album che è una compilation che si intitola Bluebells with Attitude della Haze Records. È una compilation uscita qualche anno fa sulla scena musicale femminile che va dagli anni 40 agli anni 50. Ora, detta così, visti gli anni di cui si parla, ci si potrebbe immaginare, non lo so, un disco di allegre signorine che cantano del chiaro di luna e delle tendine da mettere alla finestra. Ma invece no, siete degli ingenuotti, ci si trova davanti a voci roche e sciupate dal tabacco, da mani callose, corpi stanchi, insomma. E per farla breve, avrete intuito, il blues e l'R&B ha l'ennesima potenza e nella sua radice più vera, con ovviamente tutte le inflessioni del jazz. E ascoltare queste cantanti non è una cosa particolarmente facile, sì, perché non si trovano essenzialmente. La censura e lo slavato mondo americano degli anni 50 le ha nascoste per molto tempo, perché sì, appunto, invece la figura femminile doveva cantare di cose ben più allegre e ben più facili, e quindi raramente queste cantanti sono arrivate a quello che viene chiamato il grande pubblico. Tant'è vero che la voce che canta questo pezzo è, nella compilation di cui vi parlavo, catalogata come sconosciuta, unknown artist, quindi chissà chi la canta, chissà chi l'ha scritta, non si sa molto di questo pezzo, se non che è un bel pezzo, e che si intitola 24 Hours a Day. Vi ricordo, se ve la volete scaricare, si trova, io l'ho trovata sul SoulSeek, ma insomma la trovate un po' ovunque, Bluebells with Attitude, ve lo consiglio perché è una bellissima e varia, variegata e interessante compilation, sempre appunto della Haze Records. 20 Hours a Day. Wombat Radio o Radio Wombat, come preferite, sempre Slick Chick. E vedo ora che sulla regia del Wombat c'è un geco che si arrampica sulla finestra. Molto bello, ma vabbè, sì, deve essere stato attratto dalla nostra musica. Vi ricordo i social Wombat, veloci, che ancora non ve li ho ricordati. Il sito wombat.noblogs.org, dove potete trovare tutte le trasmissioni, capire di cosa parliamo, guardare gli orari, le repliche, tutte queste cose qui, ascoltarvi i podcast. Poi il profilo Twitter, che è Radio Wombat Fi, e il profilo Facebook per le persone banali e prive di immaginazione, che è Radio-Wombat-Firenze. E invece la casella di posta, postawombat@insiberia.net, a cui mi raccomando di scriverci e raccontarci cosa ne pensate delle cose che facciamo. Questi che avete sentito adesso erano i Panico, Beh, i primi Panico proprio, perché era il disco del omonimo Panico, per l'appunto, del 1990. E beh, disco fino a un certo punto, perché si trattava in realtà di una cassetta coprodotta da Nautilus e Blue Bass, giusto per tornare a riallacciarci ai China dell'inizio. E il pezzo si chiamava 14 aprile. In realtà poi questo è originariamente la prima volta che è comparso, diciamo, questo brano con questa cassetta, ma poi lo trovate anche nel vinile Scimmie, coprodotto anch'esso da sempre Nautilus, gli stessi Panico, Mister X e sempre Blue Bass, che vabbè, in realtà forse vi è sembrato un po' strano il testo, non lo so, ma è tratto da una poesia di Majakowski. E sempre restando a Torino, perché ormai abbiamo iniziato e vi confesso che ci resteremo per un altro po', ci ascoltiamo Ishi, un progetto parallelo della, diciamo, galassia Franti e Affini. L'album è Sotto la pioggia, del 1995, sempre della Blue Bass, sempre gli albori del DIY italiano, mi sento di dire. E devo dire che dopo il concerto dei Franti di venerdì scorso al Next Emerson, per chi se l'è visto lo sa, per chi non se l'è visto se lo immaginerà, mi manca ancora di più la voce di Lalli. E quindi eccola negli Ishi, e in questo pezzo che si chiama 500 Años. Originariamente in realtà questo pezzo è di Léon Jacquot, si chiama Cinco Siglos Sigal, torna perché infatti ricorre nel ritornello, ma gli Ishi lo trasformano un po', lo riarrangiano e ci mettono la, secondo me, bellissima voce di Lalli, e rifanno anche il titolo, che si chiama in questo caso appunto 500 anni, 500 años. Sì, perdonatemi lo spagnolo che è orribile, però insomma avete capito. E quindi eccoveli. nada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo espinal, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tiniebla con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos y beh, secondo me ci stava tutto questo pezzo. E proseguiamo sempre rimanendo a Torino, come vi preannunciavo, con i Bellicosi, perché i Bellicosi hanno fatto un pezzo secondo me veramente veramente bello. Io vi confesso, sono una grande fan dei Bellicosi, mi piacciono assai. E questo brano si intitola Millennio e quindi non potevo non cogliere la scusa e lo spunto per farveli ascoltare. L'album è Torino Rock and Roll Stars del 2001 e però sì, certo, prima di farveli ascoltare vorrei inizia oggi questa rubrica che vi prometto essere abbastanza puntuale, un po' tutti i mercoledì più o meno ve la farò, che è la piccola rassegna stampa scelta di un importante quotidiano, periodico, ecco, non quotidiano, comunque un'importante fonte di informazione che ci regala delle perle, informazione critica e di un certo tenore, di un certo calibro, che è Arcorella 2000. Arcorella 2000 è, sì, se non lo conoscete ve lo consiglio, arcorella2000.wordpress.com è il periodico che ci tiene aggiornati su tutte le importanti novità e non novità del mondo dell'hardcore punk affini. E in particolare il nesso molto facile e molto così un po' da ingenuotti è perché Arcorella 2000 ci racconta del concerto dei Bellicosi, perché vi ricordate qualche settimana fa quando parlavamo della torinesità con Gino ospite, ci lamentavamo del fatto che i Bellicosi avevano fatto una reunion e un concerto l'anno scorso per un compleanno di un amico, tra l'altro, ma vabbè, noi eravamo molto molto invidiosi e quindi trasudavamo livore inveendo contro di loro che non ce l'avevano detto e non eravamo potuti andare a vederli. Bene, c'è stata una seconda possibilità, questa volta pubblica, questa volta sparsa ai quattro venti, questa volta lo sapevano tutti E no, io l'ho saputo tardi e quindi mi sono persa anche questa volta, faccio schifo, ma sono io che non sono dentro le cerchie, mi rendo conto, non è certo colpa dei Bellicosi. Però c'è stato un nuovo concerto dei Bellicosi a Torino il fine settimana scorso e attenzione, anzi 2 settimane fa, e attenzione, siccome i biglietti sono andati tutti sold out subito, sono state fatte 2 date. E una di seguito all'altra, e quindi i Bellicosi hanno suonato a Pasqua per ben 2 giorni di fila allo Spazio 211. E Arcorella 2000 ci racconta questo evento, però ce lo racconta in realtà ancora il resoconto non ce l'abbiamo, ma insomma speriamo di leggerlo nelle prossime settimane. Ma ci racconta il pre, cioè come siamo arrivati a questo boom. Ovvero, allora, il titolone in prima pagina è: scoperto giro di secondary ticketing per il prossimo concerto dei Bellicosi. E vi leggo il breve articolo che comunque ci dà importanti informazioni sull'area che tirava a Torino e un po' in tutta Italia in vista di questo grande evento. L'atteso e questa volta non segreto ritorno dei Bellicosi in programma a Torino il prossimo 15 aprile si tinge di giallo. Indagini della Guardia di Finanza del capoluogo piemontese hanno scoperto infatti una serie di irregolarità nella gestione dei biglietti disponibili per il concerto che fanno pensare a un possibile giro di secondary ticketing, se non proprio a dei biglietti falsi venduti online. Le indagini sono partite dalla sospetta quantità di soggetti impegnati in varie città italiane nella vendita dei biglietti, oltre Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma, Sestri Levante, ai quali si aggiunge la piattaforma di Ticket 24 Hour. Troppi per un concerto in un luogo non proprio capiente come lo Spazio 211, considerato che non è possibile immaginare che non saranno venduti anche biglietti alla porta. Per questa serie di motivi, gli inquirenti sono giunti alla conclusione che sia in atto più di una forma illegale di vendita, nella quale probabilmente si è concretizzata un'inedita alleanza tra criminalità organizzata di stampo mafioso ed ambienti eversivi di tutto il nord Italia. Al momento le autorità hanno invitato i possessori dei biglietti a verificare la loro autenticità e a non acquistare ticket con prezzi maggiorati. Una raccomandazione che di certo non tiene conto delle centinaia di persone offese dopo lo scorso concerto segreto e che preferibilmente non fermerà l'isteria collettiva che si è scatenata per accaparrarsi gli agognati biglietti. Per evitare disordini, l'augurio è che lo stesso gruppo inviti pubblico e potenziali bagarini alla responsabilità. Il rischio è di assistere a scene modello Woodstock 1999. Ebbene, dopo questa introduzione, ascoltiamoci appunto per noi poveracci che non siamo andati neanche questa volta a sentirci Bellicosi e tanto l'avremmo voluto fare, ascoltiamoci i vecchi Bellicosi con Millennio. Yeah. legno. Questi, per una banale associazione di idee con i bellicosi, erano i Titor. Però d'altronde i Titor, quando si parla di tempo e di misurazioni del tempo, linea temporale e quant'altro, beh, non possiamo non metterli. Il pezzo era dal 2036, che è un po' l'incipit, o meglio il racconto di questo personaggio, Titor, il navigatore temporale, colui che torna indietro dal 2036, un po' come l'Eternauta ci aveva abituato tempo fa. Titor, questo era l'album Rock Is Back del 2012, il primo album loro, prima stampato in una sorta di demo, un po' in versione un po' più, più semplice, poi da pubblicato da Inri un po' in versione più, con un packaging, ecco, più affascinante. E dopo Bellicosi e Titor, e insomma averci deliziato con questi due bellissimi pezzi, usciamo finalmente da Torino e arriviamo a un altro brano che ci parla del tempo, ovviamente, che è The Holy Hour dei Cure. Questo pezzo di Cure in particolare non è famosissimo, o meglio, non è famosissima la versione che vi propongo, che in realtà è la prima versione, scritta nel lontano ormai 1980 e suonata live a Londra il giorno dopo del suicidio di Ian Curtis e, beh, ovviamente dedicata a lui da un Robert Smith abbastanza provato e abbastanza emozionato, come possiamo immaginare. Rispetto alla versione successiva, rivista e riarrangiata, soprattutto dal punto di vista musicale, ha anche un testo diverso. E poi sì, da un punto di vista di melodia ha un andamento, lo noterete, più scarno e parecchio più ossessivo. È un però, al di là ora del brano da un punto di vista musicale, è interessante perché è un esplicito omaggio alla trilogia di Gormenghast, che è, per chi non la conosce, immagino che saranno tanti di voi, è un meraviglioso ciclo di libri di Mervyn Peake. È un classico della letteratura del primo dopoguerra inglese e insensatamente, secondo me, poco conosciuto qui in Italia e fuori dall'Inghilterra, anche se, insomma, Mervyn Peake potremmo un po' paragonarlo al Calvino italiano, ecco, se potremmo definirlo, sì, il Calvino inglese, quindi non era proprio un personaggio marginale nella letteratura inglese, eppure in Italia, anche se è uscito, è stato pubblicato ed è un po', insomma, non è proprio un libretto, ma non è conosciuto come dovrebbe, almeno secondo me, che sono una divoratrice dei suoi libri, quei pochi che sono usciti in italiano. Dicevamo, il mondo di Gormenghast, a cui appunto rendono omaggio i Cure in questo pezzo, è un mondo fantastico, minuzioso e grandioso al tempo stesso. Lo potrete sperimentare leggendolo, se vi interessa di leggere i tre libri scritti da Mervyn Peake. E è una sorta di impero di pietra e polvere destinato a rovinare come un castello che crolla o una biblioteca che brucia. Mervyn Peake era anche uno degli illustratori più famosi e grotteschi di Lewis Carroll, di Alice nel Paese delle Meraviglie, ad esempio, e dell'Isola del Tesoro anche, ma è anche di tantissimi altri classici. E il suo modo di scrivere è in qualche modo rispecchia questa sua capacità di illustratore incredibile. Sì, è un modo di scrivere incredibile e pittorico, soprattutto molto, molto descrittivo. In Inghilterra ha influenzato moltissimi scrittori, musicisti, artisti di vario genere e, insomma, trovo perfettamente ovvio che anche Robert Smith dei Cure adorasse le sue opere e che si sentisse in qualche modo di far parte di quel suo mondo. Ascoltiamocelo, The Holy Hour, e questo sì è un live, è proprio il live all'indomani della morte di Ian Curtis, quindi la qualità è quel che è, ma insomma penso che capirete che ne vale la pena. The Cure. This is called The Holy Hour. It's dedicated to Ian Curtis. Thank you. is permanent. Love shattered pride. What once was innocent turned on its side. A cloud hangs over me, marks every move. Deep in the memory, what once was love. Put into perspective, try so hard to find. Just for one moment, thought I found my way. Destiny unfolded, I watched it slip away. Excessive flashpoints beyond the reach. Solitary demands for all I'd like to keep. Let's take a ride out, see what we can find. Valueless collection of hopes and past desires. Ovviamente poi questi erano i Joy Division con 24 Hours, l'album è Closer del 1980 che come saprete è di appena due mesi, uscito appena due mesi prima del suicidio di Ian Curtis di cui parlavamo prima. E, beh sì, ci stavano anche loro, sì, direi proprio di sì. E proseguiamo con un altro pezzo. Beh, sempre allegro, comunque spensierato, perché finiamo su Nick Drake. Vi ho già raccontato della triste storia dell'incompreso in qualche modo Nick Drake in una delle prime puntate di Slick Chick, quella sull'autunno. Andatevela a risentire se non l'avete ascoltata e se vi sentite un po' troppo allegrotti e baldanzosi e avete voglia di foglie secche e colori preraffaelliti. Il clima di questi giorni vi aiuterà e questo è 3 Hours dall'album 5 Leaves Left, bellissimo album che vi consiglio se non lo conoscete, del 1969 appunto di Nick Drake. from sundown. Jeremy flies, hoping to keep the sun from his eyes. East from the city and down to the cave, in search of a master. From London, Giacomo's free, taking his walls down to the sea in search of a lifetime to tell when it's home. Such of a story has never been known. Wanting to be seen on their own. 3 hours is needed to leave from the mall. 3 hours to wonder. E questi erano i Portishead con Seven Months, sette mesi, dell'album, era l'omonimo Portishead del 1997. Basta, siamo a conclusione di questa linea temporale, questa trasmissione dedicata al tempo, e Slick Chick vi saluta, vi saluto io, e prima di darvi appuntamento al solito al prossimo mercoledì, non so se il prossimo mercoledì avrò degli ospiti con me o se li avrò nelle settimane a seguire, ma vi posso già annunciare che avremo delle voci nuove che mi aiuteranno a raccontarvi di mirabolanti argomenti quali Lynch e ve l'ho già detto un po', il CBGB's, ma vabbè, non vi voglio anticipare troppo, e anche perché ancora non so di quali date stiamo parlando, ma in ogni caso vi do appuntamento a mercoledì prossimo. E prima però, dicevo, vi faccio ascoltare l'ultimo pezzo di questa scaletta di oggi, che è un po' in segno benaugurante, forse, non lo so, l'anno del drago di Chaos One, tratto da, come saprete, l'album L'attesa del 1999. E mi raccomando, venite a trovarci sabato prossimo al Next Emerson, c'è una serata di sound system, dub e reggae e quant'altro, e guarderete meglio i dettagli perché io non ce li ho, perché l'agenda del Wombat è sempre poco aggiornata, purtroppo, lo devo dire e lo devo ammettere, ma guarderete i dettagli sul sito del Next Emerson, che vi spiegherà il tutto, il per come, il perché. Ma venite a trovarci, in particolare perché parte dell'incasso della serata sarà devoluto benefit alla vostra radio preferita, appunto Radio Wombat, se vi stavate chiedendo qual era, ma siete degli stupidi se ve lo chiedete ancora. E quindi, insomma, venite a trovarci, a aiutarci a autofinanziare questa radio autogestita dei sobborghi fiorentini. E appunto basta, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, se proprio non ci siete sabato. E questo è Chaos One, l'anno del drago. Ciao ciao! Preparati, Chaos! Nascosto fra le pieghe del tempo, l'ultimo evento, oltre il punto di non ritorno, intorno all'ultimo giorno, questo è il mio turno. Claustrofobia nella follia, via pratiche magiche tra l'alchimia e la santeria. Molto più mistico, anche di un congresso eucaristico. Ignoro l'oroscopo, poiché ne sovverti il pronostico. Apro lo scrigno del mago, controllo il contenuto, ne pago il castigo subito nel segno del drago. Il combattesimo, l'ennesimo secolo in cui fottere il prossimo altrui, per molti di noi è considerato il massimo. Scritto senza inchiostro, lo specchio d'alabastro predice il disastro. Sei nel castello di Cagliostro, l'Armageddon. L'ultima guerra quando la terra trema, l'ultima scena omicida, l'ultima cena con Giuda. La strada per là di là, Shangri-La, percorrila nel tempo e nello spazio, prima dell'ultimo giudizio. L'intensità di ogni tuo singolo senso, oltre le nubi d'incenso, sei nell'attesa di un responso, di un segno. La luce nel buio, oggi ogni giorno l'odio è più forte. L'anno del drago alle porte, e ogni guerriero che lo sa dovrà stracciare il massimo. Oltre l'ultimo limite già proiettato verso il prossimo. Tempo scaduto, se è l'ultimo minuto che impiego non lo rinnego. L'anno del drago, e ogni guerriero che lo sa dovrà stracciare il massimo. Oltre l'ultimo limite già proiettato verso il prossimo. Tempo scaduto, se è l'ultimo minuto che impiego non lo rinnego. L'anno del drago. Non posso credere in niente, nemmeno in me stesso, per ciò che ho promesso ora confesso, nei diritti che ho commesso è una chiave di lettura. L'unità di misura e paura, la storia si confonde, la realtà non si comprende. So che dietro ogni simbolo è nascosto un ostacolo, dietro ogni croce un pentacolo, è pronto il nuovo capitolo, il secolo ora è al termine. Disordine nell'ordine, costretto a stare al margine, corrosivo come ruggine. Qualcuno si domanda se ti ostia in un computer, perché qua c'è più sangue che in un racconto di Bram Stoker. Qualcuno si impegna, qualcuno si ingegna, qualcuno si rassegna, qualcuno ha già gettato la spugna. Ora il segno del drago a risplendere tra le persone, la realtà non può trascendere la mia allucinazione, oltre la quinta dimensione l'ignoto acquista forma, il moto perpetuo si ferma, la via del vuoto nel karma conferma che ciò che era scritto in principio ora è più chiaro, più vero, troppe realtà nel microscopio, frammenti rallentamento. Il tessuto narrativo adesso è fuori controllo. Pezzi in posizione di stallo. Talento insufficiente a procedere per via diretta. Lascio che il segno del drago mi mostri la strada esatta. Idea cico per la mente. Acqua dalla sorgente. Luce fosforescente. La copia è buia e costante. Non vedo alternative possibili. Rinchiuso tra mura invisibili. Indovina chi li ha ammazzato. Suoi miracoli. Reclamo ciò che è mio per diritto acquisito. La via del vuoto l'ignoto. La strada del modo perpetuo. L'infinito a portata di mano. Il contatto divino. Il dono del perdono. Adesso è sempre più vicino. Maestro Caos, stai bene? Stai ferito? Era da molto tempo che non mi sentivo così pronto a combattere contro il nemico. E ogni guerriero che lo sa dovrà strutturare.